problema molto strano che mi parte dalla testa. Cerco busta più robusta e giro rave da panca bestia. Non sono un rapper davvero, non starlo a dire. Non lo faccio per i soldi già dal tempo delle lire. Rive fighe sono fighe, se è più figo l'argomento. L'argomento fila liscia, figa, segui il filamento. Ma a stento mi seguite, per questo rallento tutto. Neuroni, vibrazioni, reazioni portando il lutto. Distrutto tra la gente, intendo emotivamente. Visto che lo si fa bene oppure non si fa per niente. Sto tra stanze a luci spente per redimere coscienze. Ho rimanenze di sti testi per bruciare miscredenze. Poi pazientemente seguite la lezione. Qua si tratta di dizione, matematica e fusione. Tradizione, disciplina, tecnica, letteratura. Gli argomenti sono il centro, tutto il resto è la chiusura. È l'argomento che manca in ogni vostro suono. Ascolta bene i miei testi e dopo chiediti chi sono. Sono la voce che sporca le vostre casse. Sputo rime sull'asse, piombo sopra le masse. È l'argomento che manca in ogni vostro suono. Ascolta bene i miei testi e dopo chiediti chi sono. Sono il lampo nel cielo prima del tuono. Me ne fotto se non piace alle orecchie di tutti loro. Dalla scienza dei più pazzi che scrivono sui palazzi, che si scoppiano di tutto e tutti fanno i propri cazzi. Tra schiamazze, distrazioni, storie della polizia. Cerco il tempo per descrivere Savona dalla mia. Io non vivo in città, sono un babbo provinciale. Così babbo da non stare dentro a un centro commerciale. Da non stare mai a sentire ma a provare ad ascoltare vibrazioni positive anche se il posto fa cagare. Lascia stare quella gente che ti dice tutto uguale. Ascoltandolo ho sentito tutto, non puoi immaginare. Puoi provare a fare rime tante, tanto pesante. Girando tutto l'Atlante, restando in moto costante. In questa parte mantengo l'argomento e rimandiamo. Traccio segni sulla pelle, tu lo sai come mi chiamo. Io non faccio mai l'indiano, ma mi sembra in un momento che sto pezzo a tante rime senza un singolo argomento. È l'argomento che manca in ogni vostro suono. Ascolta bene i miei testi e dopo chiediti chi sono. Sono la voce che sporca le vostre casse. Sputo rime sull'asse, piombo sopra le masse. È l'argomento che manca in ogni vostro suono. Ascolta bene i miei testi e dopo chiediti chi sono. Sono il lampo nel cielo prima del tuono. Me ne fotto se non piace alle orecchie di tutti loro. Fat MC 2010, Lil Buck come sempre dietro quella schermata azzurra. E questo è Rap Underground.